Italia in controluce. Buon pomeriggio a tutti, in studio Daniele Biacchesi. Italia in controluce di oggi trasmette in diretta dal padiglione della regione Puglia della 76esima fiera del Levante di Bari, e oggi da qui abbiamo pensato di realizzare una puntata sulle primarie del centro-sinistra che sono entrate in questi ultimi giorni nel vivo dell'organizzazione. Lo abbiamo pensato perché proprio negli ultimi giorni ci sono state moltissime polemiche, moltissime dichiarazioni. Tutto avviene in un clima di grandissima incertezza politica, con il centro che lancia in questi giorni il cosiddetto governo Monti bis, con l'incognita Montezemolo che potrebbe candidarsi, con il Partito Democratico e SEL che confermano l'alleanza e confermano anche l'esclusione di Antonio Di Pietro, e con il Movimento 5 Stelle che è in grande difficoltà per le divisioni tra base e vertice. E tutto questo accade nel momento in cui soltanto il 51%, pensate, degli italiani dicono di essere pronti ad andare a votare, e si registra un astensionismo record mai segnalato nel nostro paese. In questo scenario si snodano dunque le primarie del centro-sinistra. Valeria De Rosa ha curato con me la puntata odierna sulle primarie. Valeria. Sì, intanto ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, a te Daniele. Facciamo intanto il punto su quelle che saranno queste primarie, e partiamo da quelle che sembrano al momento le notizie certe, anche se ancora non ufficiali. Le primarie del centro-sinistra per scegliere quindi il candidato premier si svolgeranno con il doppio turno il 25 novembre e il 2 dicembre. Notizie non ancora ufficiali, perché sarà poi l'assemblea del partito a fine settembre a formalizzare la sfida per la premier, modificando una norma dello statuto che prevede che sia il segretario in carica a indicare il candidato premier. Oltre al segretario Bersani, che comunque ha le sue gatte da pelare perché attualmente deve vedersela anche con la richiesta di ricambio generazionale avanzata da Fassini e Orlando, c'è Renzi che parte dopodomani con il suo camper. In campo anche Vendola di Sinistra Ecologia e Libertà e Bruno Tabacci. A luglio aveva avanzato la sua candidatura anche Stefano Boeri. L'idea dell'assessore di Milano, sconfitto, lo ricordiamo, nelle primarie per la scelta del candidato sindaco, sconfitto da Giuliano Pisapia, era quella di aprire a tutte le correnti del partito per evitare che la gara fosse a due, quindi Bersani contro Renzi. L'ultimo annuncio in ordine di tempo è stato quello di Bruno Tabacci, che ha ancora una volta rimescolato un po' le carte. Quindi Rutelli e i suoi hanno di fatto abbandonato i centristi, come dicevi anche tu Daniele. Il 13 settembre, quindi dopodomani, alla convention di Maratea si vedrà che cosa hanno poi intenzione di fare. In ogni caso la marcia di riavvicinamento al Partito Democratico è sicuramente cominciata. Ma per fare un po' di storia, possiamo dire che il primo caso di elezioni primarie di rilievo nazionale è avvenuto il 16 ottobre del 2005. Bisognava scegliere il candidato presidente del Consiglio dei Ministri della coalizione di centrosinistra, l'Unione per le elezioni politiche, poi svoltesi il 10 aprile 2006. Una testa, un voto a scrutinio segreto, questi erano i criteri. I votanti furono chiamati a versare la somma simbolica di un euro per finanziare la campagna elettorale della coalizione. Potevano partecipare alle primarie anche gli stranieri residenti in Italia. La partecipazione fu piuttosto imponente, perché parteciparono oltre 4 milioni di persone, poco meno di un decimo dell'elettorato nazionale, che si recarono a circa 10.000 seggi. Vinse Prodi con oltre 3 milioni di voti. Nel 2007 bisognava fondare il partito, bisognava scegliere il nuovo segretario, bisognava costituire l'assemblea. Vinse Veltroni, lo ricordiamo, correvano con lui anche Letta e Rosi Bindi. Vinse Veltroni con oltre il 75% dei voti su oltre 3 milioni e mezzo di voti. In quel caso votarono anche coloro che avevano già compiuto 16 anni. Poco più di due anni dopo, nel 2009, i voti furono poco più di 3 milioni, vinse Bersani con oltre 1,5 milioni. Con lui correvano Dario Franceschini e Ignazio Marino. Da questi dati possiamo desumere che, almeno proprio stando allo stretto numero, la partecipazione nel corso degli anni è leggermente calata. E a Valeria De Rosa, da Reggio Emilia, il segretario del Partito Democratico, per Luigi Bersani, ha affermato che il partito è pronto ad affrontare le elezioni e soprattutto ha detto nel weekend è pronto alla responsabilità di governo. Sentiamolo. Da Reggio Emilia una richiesta di fiducia verso un partito che ha in testa una cosa sola, dare una mano all'Italia. Ma da Reggio Emilia anche un richiamo fermo e forte alla responsabilità e all'unità del Partito Democratico. Siamo pronti noi, Partito Democratico, e noi democratici e progressisti italiani, con i nostri valori di uguaglianza, di civismo, di libertà, siamo pronti a prenderci la responsabilità di governare l'Italia nel suo momento più difficile? Il suo primo e diretto avversario è il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Questa mattina era ospite di Alessandro Milan. Sentiamo che cosa ha risposto iniziale la richiesta di dimissioni da primo cittadino. Sembra che uno debba abbandonare il proprio incarico come se fare il sindaco non avesse a che vedere con la politica. Cioè io non è che sto facendo il sindaco come un amministratore di condominio, sto facendo il sindaco della città di Firenze, che non è nel Granducato autonomo della Toscana. Se mi impegno nella politica nazionale è perché i nostri territori abbiano poi delle risorse in più. Casomai la vera considerazione sarebbe: ma dopo, se vinci, bene, ma se perdi, lasci il tuo ruolo e vai in Parlamento a farti dare uno stipendio che è tre volte tanto, o rimani a fare questi? Io ho detto: se perdo le primarie, spero di non perderle, che c'entra, ma se le perdessimo, io resterò a fare quello che i fiorentini mi hanno chiesto di fare. Chiaro, per la logica della politica è un po' strano. Questo è un paese nel quale si continua a dire chi perde è un fallito. Io penso che sia un fallito chi non ci prova mai. Il vero marchio di infamia è non provarci. Ma lei è convinto al 100% che ci siano queste primarie? Ma io mi fido di quello che ha detto Bersani. Perché non dovrei fidarmi di ciò che ha detto Bersani? Bersani ha detto: il PD è nato con le primarie. Una classe dirigente che vuole sfidare il futuro non può certo aver paura dei propri elettori, per cui facciamo le primarie libere, aperte e democratiche. Io ci credo, non credo di essere un ingenuo, mi sembra l'unica cosa che il PD può fare. No, ma certo, ci saranno, però ci sono ancora dei dubbi. Sarebbe bello se lo facessero anche gli altri ogni tanto le primarie. Per ora tanto si è parlato del fatto che lei vuole rottamare, tra virgolette, quelli che ci sono, ma che cosa propone di nuovo? Mi dica i tre punti salienti, se fosse premier in questo momento Renzi, che farebbe? Modificare totalmente l'impostazione dello Stato, perché la burocrazia che oggi avviluppa e opprime anche gli enti pubblici, non soltanto i cittadini, è un elemento non solo di mancanza di efficienza, ma anche un elemento di freno economico. A me capita di avere delle aziende che non investono nel mio territorio soltanto perché hanno paura dei tempi drammatici della burocrazia. Fino a qui Matteo Renzi, un altro candidato di peso che rischia di insidiare il segretario e il governatore della Puglia. Noi stiamo parlando proprio dalla 76esima Fiera del Levante. Il leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendolo, è stato qui nei nostri studi ieri, era ospite di Focus Economia, lo ha intervistato per noi Sebastiano Barisoni. Lei è d'accordo per un Monte Bis? Direi che sono proprio in disaccordo, perché già il primo Monti, per quello che mi riguarda, è stato sufficiente. Ecco, e lei in queste dichiarazioni di Bersani, che ha detto no, se vinciamo noi, proporremo noi il nostro candidato, vede una posizione di avvicinamento verso sé, perché mi sembra di capire che voi correrete assieme comunque alle elezioni. Guardi, noi su un'agenda di governo che rompa con le politiche di austerità, non con le politiche di rigore, ma con le politiche di rigore nei confronti dei ceti popolari, con le politiche vessatorie nei confronti dei pensionati e delle giovani generazioni, con un'agenda che sia, diciamo, capace di rimettere in circolazione un po' di sana cultura keynesiana, l'idea che la crisi la si affronta non impoverendo i ceti medi, ma la si affronta dando ossigeno a chi vive, diciamo, nelle periferie sociali. Allora io penso che noi abbiamo bisogno davvero di accorgerci che l'Italia di oggi soffre non solo per la crisi del 2008, ma anche per le crisi prodotte dalla cultura dei tagli lineari, dello smantellamento del welfare, del dimagrimento riconoscimento dei diritti sociali. Io credo che il welfare non sia soltanto protezione nei confronti dei diritti dei cittadini, sia anche benzina nel motore della crescita, dello sviluppo. Su questo vorrei fare con Bersani e con tanti altri un tragitto anche dal punto di vista del governo. Lo farebbe anche con Renzi? Ma io credo che Renzi rappresenti oggi una continuità con le politiche liberiste, con l'Europa che ha rischiato il collasso cercando di salvare le banche, ma non di salvare un modello sociale. Cioè un Renzi amico dei banchieri? Ma Renzi, fra la CGIL e Marchionne, ha scelto Marchionne. Io, fra la CGIL e Marchionne, scelgo la CGIL. E questo fa una differenza abbastanza incolmabile. Però mi dica una cosa nel chiudere. Tutto questo ostracismo nei confronti delle primarie con Renzi non è poco democratico per un partito che si chiama democratico? No, tanto lei non fa parte del PD, però... Da fuori, come la vede? Cioè, fanno bene a fare le primarie, fa bene Renzi a chiedere? Io vorrei nelle primarie raccontare, per esempio, che c'è un posto in Italia che si chiama Puglia, che in controtendenza è riuscito ad affermare un modello di sviluppo che sta dando più lavoro. Questa è la regione che è al primo posto in Italia per crescita dell'occupazione, per crescita dell'export, è un tentativo di andare in controtendenza. Vuol dire che puntare sulla green economy, sul talento dei giovani, sull'economia della conoscenza, produce dei risultati. Io nelle primarie vorrei portare non l'innovazione intesa come genuflettersi dinanzi ai guru del turbocapitalismo a chiacchiere come questo. Fa Marchionne, ma vorrei portare un'idea del mettere cura nelle città, nel territorio, del risanamento ambientale. Questo dice Nichi Vendola. Questa era l'edizione odierna per quest'oggi 11 settembre di Italia contro Luce. Vi ha parlato Daniele Biacchesi, in redazione vi ricordo Valeria De Rosa, Carmelo Lauricella da Milano, Michelino Previato e Davide Cioccia qui da Bari. Naturalmente domani torneremo con nuovi approfondimenti sul Fatto del Giorno. Vi ricordo Facebook, gruppo, pagina Twitter, controluce @radio24.it.